La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Primo weekend di marzo, primo weekend dopo Oscar, insomma, punto nodale della stagione cinematografica. Un saluto da Franco D'Assisi, eccoci all'ora di cinema di Radio 24. La Rosa Purpurea, settimana con una forte incidenza di cinema italiano su quelli che saranno presumibilmente anche gli incassi al box office lunedì prossimo, settimana appunto che è reduce dai premi Oscar. Vedremo anche di trovare il modo di dire la nostra su questa premiazione, ormai lontana quasi una settimana. Andiamo allora a riepilogare quelli che sono i temi principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Essere John Malkovich e lavorare con Gabriele Salvatores. Esce nelle sale italiane Educazione Siberiana, il nuovo film del premio Oscar tratto dal libro di Nikolaj Lilin. Un affresco su un passaggio epocale, la caduta del comunismo, visto con gli occhi di due giovani amici da una landa desolata della Russia. Tornare a casa, trovarlo occupata e piazzarsi sul pianerottolo per guidare la propria battaglia. È una commedia sociale, tutti contro tutti. Esordio alla regia di Rolando Ravello, che ne è anche interprete, insieme a Marco Giallini e Kasia Smutniak. Franceschi Naudi e Olly Golightly, protagonista di Colazione da Tiffany al Teatro Manzoni di Milano. Ma qui c'è più Truman Capote che Blake Edwards e più Marilyn Monroe che Audrey Hepburn. Intervista con l'attrice alla Rosa Purpurea. Il mondo di sopra e il mondo di sotto, contigui ma incomunicabili. Come in Romeo e Giulietta, è Upside Down, fantasy interpretato da Jim Sturgis e Kirsten Dunst. Belle immagini e scenari futuristici per un film che però non convince. Cominciamo subito con le novità al cinema e cominciamo con il film di Juan Diego Solanas, Upside Down. Gene Sturges, Kirsten Dunst sono i principali protagonisti di questa storia che ha un mondo di sopra e un mondo di sotto. Insomma, non ci inventiamo niente, si potrebbe dire, da Romeo e Giulietta, West Side Story, dai licantropi contro i vampiri. Insomma, è tutto un fiorire di storie, anche negli ultimi tempi, che si richiamano all'archetipo dei due amanti che si amano tanto ma non riescono a raggiungersi molto bene per via dell'ostilità dell'ambiente circostante. Questa volta proiettato in un clima di fantascienza. Upside Down, visto per noi, da Chiara Pizzimenti. Noi non scendiamo nel loro mondo e di sicuro non vogliamo che salgano qui da noi. Osserviamo una separazione assoluta. Ti ha proibito qualsiasi contatto con gli abitanti del nostro mondo. Un mondo di sotto e uno di sopra. Ne avete appena sentito le dure leggi di convivenza. Al cinema li vedete letteralmente fronteggiarsi, uno capovolto sull'altro. Quello di sotto, povero, degradato e sfruttato, ha, al posto del cielo, il mondo di sopra, bello, ricco, prospero e irraggiungibile. Opposta anche la gravità. Le regole sono ferree, in particolare quelle sui rapporti interpersonali. Ma Adam, orfano di sotto, incontra Aiden, bionda di sopra, quando sono ancora bambini, ognuno sul picco di una montagna. Si innamorano, diventano adolescenti, adulti, ma vengono trovati dalla polizia di frontiera. Lei cade battendo la testa, la ritroverà però. Aiden lavora nella società Transworld, unico punto di contatto tra i due mondi. Adam andrà a cercarla lì, sfidando le leggi, non solo fisiche. Prova a contattarla di nuovo e ti costerà la vita. Devi aiutarmi. Qual è il tuo piano? Ritrovarla a tutti i costi. Non capisci che se vai da loro ti farai ammazzare? L'idea dell'amore proibito, negato, ostacolato discende direttamente da Romeo, qui James Sturges, faccia romantica degli ultimi anni da Across the Universe a One Day, e Giulietta, l'ex fidanzata dell'uomo ragno Kirsten Dunst. Nulla di originale in questo, e anzi un po' troppa melassa sul finale, un finale che arriva veloce e tirato via dopo un film diretto da Juan Solanas estremamente lento nell'evolversi della storia. Altrettanto telefonata l'opposizione tra i due mondi, ricchezza e povertà, vittime e carnefici, con tutti i crismi della dittatura. Non Non solo note negative, però. Il vedere i due mondi contrapposti è un bel vedere. Le immagini sono girate con due mezze scenografie e due macchine da presa in un solo movimento. Risultato spettacolare e originale. I primi spettatori, però, escono dal cinema un po' spaesati e con qualche dubbio. A me non è dispiaciuto, ecco. Un po' così, strana. Ma sì, a parte il finale un po' campato per aria. Viene tirato per le lunghe la parte iniziale, la parte finale invece è molto stringata. Poi la trama, secondo me, presenta anche molte lacune. Mancava di sostanza, secondo me c'erano dei punti che non coincidevano, non ha dato molto. L'idea è molto buona, tutto, però il finale... Sì, mi è piaciuto, l'idea è originale, magari un po' lentino. Questo è il Vox Populi alla fine di Upside Down nei cinema italiani. Box office della scorsa settimana, Principe Abusivo che veleggia al primo posto senza alcun rivale. Ormai 9 milioni raggiunti alla fine della scorsa settimana, chissà quanti saranno in questa. Secondo, terzo e quarto posto per tre film di cui avevamo parlato la settimana scorsa. Anna Karenina, il bellissimo film di Joe Wright, è secondo. Gangster Squad è terzo. Gambit è quarto. Spingono in giù di un posto Die Hard al quinto. Sesto posto per il Bel Pinocchio di Enzo Dalò. La rosa purpurea. Oh Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua. Insomma, filosofia di vita educativa, questa di nonno John Malkovich in Educazione Siberiana di Gabriele Salvatores, che diciamo non tranquillizzerebbe del tutto le famiglie italiane, però insomma, invece lì ci sta. Un saluto e ben ritrovato alla Rosa Purpurea a Gabriele Salvatores, che è in collegamento con noi. Ciao Gabriele. Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Se la metti alla giornata delle famiglie, questa non è che proprio, diciamo così, fai successo. Sì, sì, è una strana preghiera ed è una strana educazione, devo dire, però dicono anche altre cose, dicono anche, per esempio, un uomo non può amare più di quello che non può, scusami, un uomo non può possedere più di quello che il suo cuore può amare, che è un bel concetto. È straordinario, straordinario. Infatti quindi... l'abbiamo tenuta per la fine quella. Ah, ecco, però in realtà, ecco, la cosa curiosente è che nella stessa testa, nello stesso cuore di persone che si definiscono con un ossimoro, quindi con contraddizioni evidenti, criminali onesti, però ci sono le stesse parole, insomma, è curioso. Senti Gabriele, dal romanzo di Lilin, un po' romanzo di formazione, un po' superamento della linea d'ombra, un po' affresco anche di un passaggio epocale, ci sono tanti rivoli, no? Che si possono riconoscere nel libro, e secondo me in parte anche nel film cercano una coesistenza, no? Questi diversi livelli. Tu quale hai prediletto? Cioè, qual è la storia che ti piace sottolineare di più? Ma personalmente, ecco, ci sono due cose che si uniscono. Sempre mi affascina questo passaggio dall'adolescenza all'età adulta, quando succede qualcosa nella tua vita che ti fa capire che non sei il padrone del mondo, ti mostra i tuoi limiti, anche quelli della vita, e questo è doloroso, ma è necessario appunto per crescere e diventare un adulto. E questo da una parte. Dall'altra parte l'amicizia di queste due ragazzi, che è curioso, perché uno sono il riflesso dell'altro, l'uno è il sole, l'altro è la luna, l'uno è bianco, l'altro è nero, e quindi sono destinati ad arrivare a due destini, scusa il gioco di parole diverse, ma se li guardi da un certo punto di vista, sono un po' il simbolo di quello che c'è in ognuno di noi, no? Il bene e il male coesistono. Ecco, ricordiamola la trama, perché sennò ci dicono che non l'abbiamo raccontata. Sì. Cioè, che siamo nel sud della Russia, appunto a metà degli anni Ottanta, è quasi prossima, ma ancora non si sente lontana, la caduta del muro di Berlino. Due ragazzini di 10 anni, Kolima e Gagarin, amici per la pelle, ma già con qualche qualche differenza, quel sole e quella luna che tu racconti si vedono già tra di loro bambini, in un clan che ha regole molto precise e un codice d'onore criminale ma onesto, come dicevamo prima, e un nonno, John Malkovich, che è il, prima sentivamo dire appunto, il nonno che vorremmo avere. Effettivamente sì, un po' sì, perché ha una dirittura morale, nonostante le evidenti come dire, attività criminali che capeggia, non indifferente. Ecco, raccontaci che è un po' il rapporto con questo personaggio e con questo straordinario attore. Sì, chiaramente lui è veramente l'ultimo dei moicani, il padrino di questa comunità, il punto di riferimento, l'ultimo detentore di valori che lui per primo sente che stanno scomparendo, e quindi è un personaggio affascinante per certi versi. John Malkovich poi è una persona affascinante, tanto che lui è venuto in mente lui come primo attore per questa parte subito, proprio la prima scena, abbiamo avuto la fortuna di poterci lavorare. Ho trovato un sacco di punti in contatto con lui, a cominciare dall'età, che è molto simile, al fatto che tutti e due abbiamo iniziato la nostra carriera come chitarristi, forse volevamo entrambi, io almeno sicuramente, diventare musicista, ma anche lui mi ha confessato questa cosa, siamo passati tutti e due a fare teatro e poi cinema, quindi è stato un rapporto molto, molto interessante, perché pur essendo persone con esperienze molto diverse, culture molto diverse, abbiamo trovato veramente molti punti di contatto. Ecco Gabriele, hai citato i Moicani, mi è venuto in mente questo, che guardando il film mi veniva in mente uno di quei western appunto della sopravvivenza, dell'estinzione, chiamiamoli così, no? Forse se c'è un genere a cui avvicinarsi di più è quello. Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con te, l'ho detto qualche volta, ecco, se non proprio non volete chiamarlo western, chiamiamolo eastern, nel senso che invece west è east, però di fatto è vero, se il genere che più mi richiama a questo film, che forse è un po' difficile da definire come genere, però è proprio il western, guarda. Senti, un respiro internazionale, intanto l'hai girato appunto, ricordiamolo, sul Baltico, in mezzo alle nevi, a meno 30, eccetera. E poi la storia, chiaramente, lo scrittore che c'è alle spalle, un film d'esportazione, potremmo dire anche. Speriamo proprio di sì. È un film girato in inglese, quindi con attori appunto americani, e soprattutto racconta una storia che non è legata a un singolo paese, ma può diventare effettivamente universale. E il tentativo era proprio questo, vedere che è un tentativo che si sta facendo oggi nel cinema italiano di nuovo, lo avevamo fatto negli anni 60 con successo, adesso stiamo riprovandoci a vedere se possiamo pensare dei film qui in Italia e magari inventare delle coproduzioni europee, so che si parla tanto di Europa, coinvolgere quindi altri paesi e poi provare a esportare i film nel mondo. Questo sarebbe bello che succedesse, ci stiamo provando, vediamo. Gabriele, grazie, ve la siete fatta una suonatina di chitarra con Malkovich sul set? Sì, anche se è una cosa che non è uscita dalle, però io gli ho scritto anche una lettera alla fine dicendo, guarda, per ringraziarlo, dicendo, da chitarrista è stato come suonare con Jimi Hendrix, lavorare con te, ed era un po' vero. Grazie Gabriele, in va bocca bene. Al lupo per Educazione ciao. Siberiana. Ciao. Grazie a voi, ciao. Un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare. E allora un premio Oscar alla Rosa Purpura, Gabriele Salvatore. Fra poco ne parliamo in termini squisitamente critici, anche con Boris Sollazzo. Prima però è arrivato il momento di giocare la nostra prima parentesi con le tre tracce di un film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere il DVD o il Blu-ray di questo film. Ce n'è una copia a disposizione per il sabato e una per la domenica. La prima traccia. Lei è spesso sul campo? Non c'è bisogno di essere operativi per cogliere l'evidenza. Questo è un gioco da giovani. La Rosa Purpura @radio24.it, di che film si tratta, il vostro indirizzo, provate a giocare con noi, a riconoscere questo film, più tardi ci saranno altre due opportunità. E dicevamo, allora dedichiamoci ancora a Educazione Siberiana, perché insomma l'arrivo in sala di un film di Gabriele Salvatore, un film italiano così dal respiro così internazionale, è sicuramente un momento importante, va sviscerato bene. Siamo con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, Educazione Siberiana, Il ritorno di Salvatores, lo abbiamo sentito, parliamo dell'aspetto più, cerchiamo di inquadrarlo criticamente questo film. So che abbiamo due sfumature un po' diverse nell'analisi, nell'approccio, in quello che ci ha lasciato. Personalmente ho visto delle cose molto belle, visivamente molto belle, ho trovato un po' lungo e un po'... diciamo così, con qualche falla di troppo nel procedere della storia, nel procedere drammaturgico, nella sceneggiatura, di un film che a mio modo di vedere rimane un po' freddo, cioè non riesce a scegliere una strada, anche un clima deciso da sposare tra il noir, il gangster movie, il romanzo di formazione, cerca di essere un po' tutto questo, a mio modo di vedere non riuscendoci fino in fondo. So che invece a te è piaciuto un po' di più. A me è piaciuto molto, devo dire che però non, forse le sfumature sono diciamo nella profondità di giudizio, ma non nelle perplessità singole, perché devo dire che insomma che il film fosse freddo, volendo fare una battuta, essendo in Lituania a meno 30 gradi era abbastanza facile che lo fosse, ma volendo invece parlare seriamente, a mio parere soprattutto nel personaggio di Colima e in qualche modo anche in quello ieratico di John Malkovich, voleva esserlo, cioè non voleva toccare le vette del gangster movie, ma voleva rimanere su un film che non cercava un'identità precisa, ma ne cercava tante, cioè voleva secondo me in qualche modo essere lo specchio del crollo di un impero, quello sovietico, che aveva dentro sé tante anime molto diverse tra loro. C'è da dire che sulla sceneggiatura qualche piccola perplessità ce l'ho pure io, in particolare sull'ipetraglismo, cioè su quel tipo di racconto italiano, per carità bello, per carità godibile, fluido, che però non riesce a staccarsi ormai dagli schemi che vanno dalla Meglio Gioventù, in questo caso Peggio Gioventù, al romanzo criminale. Io trovo però che Gabriele Salvatore, se riesca a disinnescare, tra virgolette, un po' come faceva anche Lucchetti nel suo ultimo film, quel tipo di schema, e a raccontare qualcos'altro, si scalda con questa storia d'amore negata, con il procedere di questa amicizia che diventa sempre più difficile, e poi ne apprezzo l'ambizione, cioè l'andare fuori dagli schemi, il cercare un racconto di grande respiro, di grande produzione, mettendosi alla prova con scelte visive anche molto complesse, non avendo paura di essere molto potente nel racconto, con diciamo anche un'ottava troppo alta non ha paura di prenderla, e questo io l'ho sempre apprezzato di Salvatores, e alla fine mi sono appassionato alla storia di Colin e Gagarin, vorrei avere nonno Cucia a casa, magari un po' meno violento. Educazione Siberiana mi è entrato comunque nel cuore, nonostante appunto riconosca che qualche difetto ce l'ha, per me non eccessivo, comunque qualcosa che mi porta a consigliarlo e a vederlo anche altre volte. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, un altro film italiano, dicevamo, arriva nelle sale, questo con minori ambizioni estetiche e cinematografiche in senso puro rispetto chiaramente al film di Salvatores, ma con la possibilità di arrivare nei quartieri alti della classifica degli incassi. Stiamo parlando di Tutti contro tutti, film di Rolando Ravello, con lo stesso Rolando Ravello, Kasia Smutniak, Marco Giallini, attore che mi fa sempre pensare che sia il caso di andare a vedere un film, eccetera, eccetera. Cast piuttosto ricco e variegato. Una famiglia un giorno scopre che il suo appartamento è occupato e al culmine della disperazione decide di occupare a sua volta il pianerotto antistante casa sua. Metafora, realtà, sentiamo il trailer poi ne parliamo. Non riesco, non capisco, non saprei. Perché improvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro, che non la senti la musichetta? stanno proprio occupando casa nostra. Allora, siccome paghiamo regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no, ecco tutto. Ma perché sta urlando lei? Non ho capito. Questa va a casa sua, qui. Tra l'altro lei manco ce l'ha più casa sua, no? Io direi che dovremmo essere un filo tutti più ragionevoli. È vero, c'hai ragione. Vuoi sentire una cosa ragionevole, eh? Sì. Ma vattene a fa culo. Lui che andrà a sparare, poi dice che uno finisce in galera. Ma che spara? Ma che spara? Devi stare tranquillo. Ah, perso per merda, ma te non hai capito con chi stai a parlare? Io ti faccio sparare! Quelli sono parassiti, non vanno via qui. Ti volevo fare una proposta un po' strana. Quale sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Boris, che c'è di nuovo in questo Tutti contro Tutti? Ma guarda, io sono molto entusiasta di questo film. A mio parere c'è di nuovo il fatto che l'Italia... forse anche per necessità ha finalmente scoperto quello che in Inghilterra avevano trovato 30 anni fa, cioè la commedia sociale, quella commedia in cui puoi ridere fino alle lacrime, indignandoti fino alle lacrime, senza toccare la retorica, ma cercando di mostrare quanto può essere tragico e allo stesso tempo grottesco questo mondo. Rolando Ravello in fondo ha questa grandezza come attore, di poter essere, per la fisicità, per il talento, espressione di un personaggio tragico, penso a quando ha fatto Pantani, ma anche facilmente con un'espressione trasformabile in comico. Non pensavo, e questa è la grande novità, che Rolando Ravello ci riuscisse così bene anche come regista. Tutti contro tutti è un bel film di regia, perché pur non cercando virtuosismi ne fa uno fondamentale. Ci dà metà del film su un pianerottolo che è uno spazio irregolare, che è uno spazio difficile da riempire con una macchina da presa e da accarezzare con una macchina da presa, e lui ci riesce benissimo, come se fosse un regista consumato. E riesce a mettere su un cast non prevedibile e privo di un divo, ma con tutti attori bravissimi. Cacio Smutniak è sorprendente, sempre più brava. Marco Giallini, come dici tu, ormai è un marchio di garanzia. Io andrei a vedere probabilmente anche un film muto fatto da Giallini, anzi soprattutto un film muto probabilmente. E poi però ci sono anche tantissime altre scoperte, l'avete sentito nelle prime battute del trailer, Giorgio Altieri, questo incredibile nonno che sostanzialmente è la coscienza del protagonista Ravello, i bambini, cioè in un cinema italiano che ormai i bambini non li sa più scegliere, li azzecca tutti Ravello. E poi il racconto di un'Italia che purtroppo adesso è precaria in tutto, è precaria persino nella casa, se non stai attento te la possono occupare, e non te la occupano persone cattive, multinazionali, i cattivi di turno, te la occupano disperati come te. E Ravello ha la leggerezza, la levità di una fiaba, ma anche il realismo, direi quasi un neorealismo tragicomico, che io spero apra una prospettiva sul cinema italiano. Davvero mi sento di dire di andarlo a vedere per due motivi: uno, perché si racconta e ci racconta in maniera straordinaria, e due, perché per una volta succede che una grande major come la Warner e Fandango, che spesso fa queste scelte, mettano in campo una storia non facile, ma che è molto bella, molto divertente e adatta al grande pubblico. Se vogliamo che il cinema italiano cresca, che ritorni ad essere grande, con grandi storie, se vogliamo alla scuola, a me ha ricordato alcuni film di scuola, Tutti contro tutti, dobbiamo andarla a vedere, altrimenti, parafrasando Moretti, ci meritiamo le commediacce scritte male e recitate peggio. Ognuno ha il cinema che si merita, insomma, parafrasando a nostra volta il famoso celebre proverbio sul governo. Allora, cambiamo decisamente clima, Boris, perché arriva in sala un altro film che per l'ennesima volta è fatto, rifatto, remake, 3D, eccetera, eccetera, ma insomma la storia è quella, le situazioni sono quelle, potrebbe avvicinare un pubblico più giovane, penso sia questo l'obiettivo, a un classico dell'horror, Non aprite quella porta, in 3D. Beast in me. Did you know anything about this place? Just the address. It's caged by frail and fragile bars. Wow. Le note della colonna sonora e delle parole del trailer originale, perché in maniera buffa non c'era in giro quello italiano. Non so se questo è un sintomo preoccupante di quanto poco magari ci crede la stessa distribuzione. Fatto sta che Non aprite quella porta, che è un classico dell'horror con la sua bella motosega che fa a fette un po' di cristiani, ritorna in versione 3D. A chi si rivolge, Boris, ne vale la pena? Dura da dire, no, secondo me non ne vale la pena, però c'è da dire che parlo da amante anche un po' ossessivo dell'originale, mentre credo anche per come struttura che il film si rivolga sì a chi l'aveva già visto, perché ovviamente usa il brand, il titolo, lo stesso titolo, però di fatto è per raccontare un certo tipo di horror riconvertito al 3D e ha una certa modernità un po' adrenalinica per chi in verità non aprite quella porta non l'ha visto, per chi ne ha odorato il mito, perché magari appunto fratelli maggiori, genitori ne parlano come di un mito, e però che se lo vanno a vedere appunto in 3D con questa caratteristica. Questa è una specie di sequel spin-off, c'è diciamo proprio la figlia di Non aprite quella porta, che è anche l'unica cosa buona, cioè la d'addario del film, c'è appunto la motosega, ci sono scene ripercorse quasi ossessivamente rispetto all'originale, però tutto ha il profumo di già visto ovviamente, ma di anche rivisto male, perché non c'è quella straordinaria potenza visiva ma anche narrativa, nel senso che quella motosega è rimasta nel nostro immaginario perché faceva realmente paura, e forse faceva più paura nel momento in cui si accendeva, nel momento in cui in controluce vedevi che si avvicinava la motosega, che nel momento in cui tagliava in due o più pezzi le vittime malcapitate. Il problema secondo me è sempre lo stesso, non so se siamo nostalgici noi o sono troppo espliciti invece i film horror attualmente, ma l'horror è soprattutto atmosfera, l'horror è paura prima più che dopo o durante, e invece adesso è diventato tutto molto esposto, molto esplicito. Non è neanche uno dei peggiori remake che ho visto in questi anni, però l'ho trovato abbastanza inutile, abbastanza pleonastico. Probabilmente però potrà piacere a chi Non aprite una porta non lo conosce, allora potrà magari appassionarsi e poi scoprire che c'è un film molto migliore, molto più bello a pochi passi da lui in DVD. E peraltro Non aprite quella porta aveva già avuto un remake nel 2003, quindi solo 10 anni fa, che aveva avuto un grosso successo, il botteghino americano. Terribile, ma con 107 milioni di dollari incassati in America. Mi chiedo proprio anche a livello commerciale quanto questa cosa di rifarlo ulteriormente in 3D possa portare, però insomma questo poi sta a chi lo andrà a vedere. La possibilità c'è, come sempre l'opportunità è lì, e chi vuole può giovarsene, insomma, diciamo. Boris, ti devo salutare perché abbiamo da giocare ancora insieme, poi fra un po' è con noi Francesca Inaudi in scena a Milano al Teatro Manzoni con Colazione da Tiffany. Insomma, c'è tanto cinema anche in questo titolo. Ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. E allora giochiamo insieme con la seconda traccia del game di oggi. Oso dire che faccio molti più danni io con il mio portatile in pigiama seduto davanti alla prima tazza di Earl Grey di quanti ne fai tu in un anno sul campo. Oh, e a che vi servo allora? La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, il vostro nome, cognome e indirizzo, provate a vincere la copia in Blu-ray di questo film a disposizione il sabato e la domenica, più tardi avremo l'ultima opportunità. Voce indimenticabile di Audrey Hepburn sulla scala antincendio con la chitarra vicino alla finestra, una delle scene icona di Colazione da Tiffany di Blake Edwards. Perché Colazione da Tiffany è in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 17 di marzo con Francesca Inaudi e Lorenzo Lavia, tratto dal romanzo di Truman Capote, più che far riferimento al film. Ne parleremo proprio fra poco con Francesca, che è già in collegamento con noi, attrice cinematografica. Allora Francesca, noi siamo una trasmissione di cinema, questo Colazione da Tiffany, dicevamo, di sapore cinematografico, ne ha molto, c'è il titolo, c'è un'icona in gioco, un confronto in gioco come quello con Audrey Hepburn, e c'è un'attrice come te che ha fatto tanto cinema, però questa volta mi pare che lo spunto maggiore, come dicevo, sia quello della letteratura, sia quello di Truman Capote. C'è forse un velo più amaro in questo personaggio rispetto a quello che la gente ricorda? Assolutamente sì, infatti insomma, cioè, è cinematografica, ma il pubblico non deve venire a teatro aspettandosi di vedere una trasposizione del film, anzi il contrario proprio. Quindi sì, sicuramente più amaro, più cinico, più crudo, senza lieto fine, è un personaggio, è un altro punto di vista, diciamo, invece di vedere una storia che è stata poi quella riadattata anche per il periodo storico, insomma, che poi ha lanciato un nuovo modello femminile, una nuova, culturalmente è stato rivoluzionario, insomma, invece riportarsi a quello che era l'originale, che era ambientato negli anni 40, che mostrava un mondo un po' diverso, insomma, rispetto a quello del film. Ecco, che donna è la tua protagonista? Come la possiamo mettere anche in relazione ai nostri tempi e ai tempi invece del romanzo? Ma è una donna estremamente moderna, nonostante sia il tipo di donna frutto proprio della Grande Depressione americana, quindi la donna che ha vissuto la fame nera e che parte da quello per il riscatto di sé e che quindi ha costruito una propria armatura con le sofferenze e i dolori che ha dovuto subire, attraverso quelle ha trovato una strada per essere sempre presente nelle situazioni che vive senza mai tradire se stessa, quindi una sorta di coerenza interna che le consente di apprezzare quello che ha senza però dimenticarsi quello che è stato e quello che ha vissuto, in questo senso moderna, insomma, una capacità di trasportarsi attraverso le situazioni e le cose del mondo avendo un centro, mantenendo un centro che è quello che le deriva da ciò che ha vissuto e qual è stata la sua vita precedente. Senti, è vero che tu, appunto, affrontando questa pièce hai voluto proprio sfrondarla da tutto l'immaginario di Audrey Hepburn, appunto, di cui era colmo il tuo personaggio, però strizzando forse l'occhio, come si legge da qualche parte, anche un po' più alla Marilyn Monroe che sarebbe proprio dovuta essere invece. Esatto. Io ho studiato proprio perché, appunto, ho letto che Capote aveva scritto la novella pensando a Marilyn, di cui era amico e che aveva grossi punti di contatto con la vita della madre di Capote. Comunque ho proprio studiato la biografia di Marilyn, mi sono vista i suoi film, comunque lo spettacolo, essendo ambientato negli anni 40, mostra un'immagine, anche c'è un'iconografia anche nei costumi, anche che è più proprio nella direzione di quel tipo di femminilità lì anni 40, i bustini, la vita stretta, fianchi e seno abbondanti, cioè comunque un altro tipo di femminilità diversissima da quella di Audrey Hepburn, quindi chiaramente ho cercato di andare in una direzione che corrispondeva di più anche proprio al testo scritto del romanzo. Allora ti lascio andare via se ci dici però che cosa ci aspetta invece al cinema di Francesca Einaudi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Guarda, non so perché sono slittamenti continui di data di uscita, però sicuramente credo entro metà aprile, prima o poi ci sarà una data definitiva fissata, dovrebbe uscire la commedia di Andrea Zaccariello con Enrico Brignano, Ci vediamo domani. E appena finisco la tournée di questo comincerò le riprese del film di Claudio Amendola, Nella mossa del pinguino, quindi sono molto contenta, sono una bella commedia con un bel cast e sono molto felice, quindi diciamo che, insomma, a parte questo ci vorrà un pochino di nuovo, perché sono un po' di tempo che non mi sono fermata col teatro e quindi il cinema è rimasto un po' in disparte, però insomma ricomincio con gioia a fare anche quello. E nel frattempo quindi c'è Truman Capote, c'è Colazione da Tiffany, dal Manzoni adesso quasi una mesata di tempo, no? Più o meno. E poi... sono 3 settimane, fino al 18 di marzo. Infatti, palcoscenico importante, grande, tanta gente, insomma, è un teatro sì, sempre molto Milano impegnativo questo qua. È importante comunque a prescindere, quindi sono molto felice di tornarci. Io, insomma, i miei primi passi sul palcoscenico li ho mossi qua, quindi sono doppiamente felice. E allora complimenti in bocca al lupo. Facciamo Trevi, così. Grazie. Ciao Francesca, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao. La rosa purpurea. ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma, che però come sempre è molto ricca di consigli per un buon film da vedere in casa. Se proprio non riuscite ad andare in sala, che è, come dire, il punto in cui il cinema si consuma, esiste, beh, c'è sempre questo piccolo surrogato del piccolo schermo che però ci può far riscoprire tanti capolavori. Lo facciamo come sempre gratuitamente, anche con i consigli degli amici del settimanale Film TV. Giulio San Giorgio già pronto in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Cominciamo con le guerre recenti e anche il cinema d'autore che si sposano in Redacted lunedì 4 marzo su Rai Movie alle 23:15. Esattamente, Redacted. Brian De Palma parla della guerra in Iraq e di un abuso dell'esercito americano sulla società civile. Pare fare un remake del suo Vittime di guerra, film sul Vietnam aggiornato alle nuove tecnologie. Come ogni film di De Palma, Redacted è un grandissimo film teorico che riflette sulle immagini della nostra contemporaneità, quella dello sguardo plurale, del web e delle videocamere portatili. Il regista ricostruisce e mostra il rifacimento di immagini di guerra, videodiari trovati online, camere di sorveglianza, documentari che si compiacciono anche del dramma bellico, e realizza un film dove gli eventi sono visti da moltissimi punti di vista, ma la verità inevitabilmente si perde. È un atto d'accusa nei confronti di ciò che nel conflitto in Iraq i media americani non hanno mostrato, e non per niente Redacted significa infatti rielaborato con intento censorio. Censura che in qualche modo ha colpito anche il film, che è stato da noi ad esempio escluso dalle sale, ma è uscito direttamente in DVD ed è andato in televisione. E allora Redacted sarà lunedì 4 marzo su Rai Movie alle 23:15. Proprio per questi motivi è anche importante vederlo o rivederlo. Altro clima, altra atmosfera rarefatta di un amore solo sfiorato, sognato, ma mai forse consumato davvero fino in fondo. Un vero capolavoro. Quando si dice questa parola bisogna sempre stare attenti, ma qui va usata. In the Mood for Love di Wong Kar-wai, martedì 5 marzo su Rai 5 alle 21:15. La parola capolavoro calza veramente a pennello, perché siamo a Hong Kong nel 1963, abbiamo due vicini di casa che scoprono casualmente che i rispettivi consorti sono amanti e si mettono in scenario, come in una prova teatrale, la nascita della storia d'amore tra i due coniugi, finendo poi per amarsi senza dirselo mai. Non è solo tra i migliori film di Wong Kar-wai, ma è uno dei melodrammi più belli di sempre. La storia del cinema sul teatro erotico dell'amore, è un film che parla del tempo che passa inesorabile, che relativizza ogni cosa e muta persino il corso della storia, ma sembra invincibile, ma invece di fronte a una cosa si blocca impotente, ed è appunto il sentimento. È un film costruito sui vuoti, sui neri che scorrono tra una scena e l'altra, sulle attese e le ellissi che riempiono una vita. E i protagonisti sono veramente splendidi, la colonna sonora eccezionale, come la fotografia di Christopher Doyle e Mark Lee Pinginbin. E allora martedì 5 marzo Rai 5 alle 21:15 in prima serata In the Mood for Love. Grazie a Giulio San Giorgio e a settimana prossima. Grazie a te Franco, un saluto ai radioascoltatori. Terza traccia del film misterioso di oggi. Donna, provocatrice, cuore, bersaglio, aquila, cielo, M, stronza. La Rosa Purpurea @radio24.it, qui era un po' più di una traccia, ma insomma ormai molti di voi hanno capito di che film si tratta. Scrivetecelo al nostro indirizzo di posta elettronica con il vostro indirizzo privato per provare a ricevere la copia in Blu-ray di questo film, una per il sabato, una per la domenica. Settimana prossima vi diremo com'è andata. 7 giorni fa avevamo giocato così. Comunque io sono cambiato ormai. In tanti sarebbero felici di saperlo. Hey, Pete. Che cosa possiamo aspettarci dal nuovo Frank White? Beh, voglio diventare sindaco. Ho notato che quando facciamo dei game su film dell'inizio degli anni 90, ci sono tanti ascoltatori molto preparati, molto cinefili, ma anche si sbaglia più del solito, perché evidentemente è una fase nella quale ancora non è storicizzata da diventare un classico e non è talmente recente da avercela ancora a memoria. È il caso di questo King of New York, con cui abbiamo giocato 7 giorni fa, di Abel Ferrara, un film importante, duro, che è rimasto assolutamente come icona nella storia del noir, del poliziesco, del gangster movie. Allora, allora King of New York lo hanno vinto Andrea Cipriani di Padova e Lucia Stella di Napoli, lo riceveranno in Blu-ray, perché questa è la novità, appunto, l'edizione in Blu-ray di cui ci parla il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, la crime story del 1990, tra le più interessanti del regista newyorkese, è approdata in alta definizione, con una notevole qualità d'immagine, un'opera cult per gli appassionati di Ferrara, che ha retto il confronto con la qualità video, con pubblicazioni Blu-ray di altri paesi, audio due canali ad alta risoluzione italiano e inglese. Sono entrambe tracce che restituiscono al meglio la colonna sonora di un film che, ricordiamo, come quasi tutti quelli di Ferrara, non ha mai eccesso per qualità tecnica, per via, insomma, di produzioni con budget ridotto, e purtroppo non ci sono extra. E allora, questo è il Blu-ray di King of New York, l'extra è il film, che in questo caso è particolarmente riuscito. Allora, andiamo invece alle recensioni, alle novità in un video, cominciando con La Faida. Il governo ci ha dato questa terra perché abbiamo lavorato. Quando queste terre erano di mio nonno, la mia famiglia ha sempre lasciato la strada aperta. La tua famiglia ha sempre abbassato la testa. Non nominare la mia famiglia con quella lurida bocca. E tu come ti permetti di darci dei ladri su e giù per il paese? Non puoi chiudere questa strada. E chi mi fermerà? Tu? Dai, provaci, provaci. Entra, entra se hai coraggio. In Albania, Nick e Rudina sono due giovani adolescenti di famiglia povera che sognano una vita migliore impegnandosi nello studio, mentre il padre manda avanti la famiglia consegnando derrate alimentari. A causa dell'interdizione al passaggio su un terreno deciso dal proprietario, si acuirà la tensione con un'altra famiglia sino all'omicidio di cui finisce accusato proprio il genitore di Nick e Rudina, che poi fugge. L'antico codice balcanico prevede che la famiglia del defunto possa reclamare la vita di un maschio della famiglia rivale. Dopo Maria Full of Grace, il regista Joshua Marston torna a parlare con notevole drammaturgia della giovinezza perduta a causa delle leggi e condizioni imposte da una società retrograda. Da Fandango, l'uscita DVD con una buona qualità di immagine, audio Dolby Digital multicanale solo in italiano, ma c'è anche l'originale in albanese, due canali. Come extra segnaliamo un backstage. E invece nel 1974 Fernando Di Leo, il regista seminale di Quentin Tarantino, firmava Il poliziotto è marcio. Vi state allargando troppo e io sto troppo stretto. Prima il caffè, poi le sigarette e adesso anche le armi. Prima 10 milioni, poi 20, ora 50, presto 100 l'anno. Aumentiamo per la tua bella faccia? No, ma per quello che trattiamo, mano a mano che ci capita. No, Pascal, non ci sto. Dovevo chiudere gli occhi per il caffè e le sigarette. Con le armi e la droga, no! Ve l'ho già detto, non ci sto! Va bene, commissario, rivedremo i nostri accordi. Domenico Malacarne è un commissario di polizia da tempo al soldo della malavita organizzata, un uomo spesso costretto a fare i conti con le proprie debolezze quando si misura col padre, integerrimo maresciallo dei carabinieri. Il rilascio forzato di due trafficanti d'armi e un omicidio che potrebbe compromettere un potente boss metteranno Domenico in una posizione sempre più scomoda, sino a quando il poliziotto non deciderà di fare un passo indietro firmando la sua condanna a morte. Era il 1974 quando il soggetto di Sergio Donati prendeva vita sotto la direzione del grande Fernando Di Leo e impersonato da un formidabile Luc Merendà. Chicca assoluta per gli appassionati, questo è Il poliziotto è marcio, disponibile per la primissima volta in DVD da Minerva Raro Video, qualità immagine molto buona, audio monofonico comunque accettabile, quello originale dell'epoca. Interessante gli extra perché c'è un documentario dedicato al regista Fernando Di Leo e uno sulla memoria del film con interviste ai protagonisti. Ricordiamo anche le musiche del grande Luis Bacalov. Grazie a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora siamo arrivati alla fine della nostra ora di cinema. Non ci resta che ricordarvi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità. Abbiamo sempre tante cose durante tutta la settimana, consigli, classifiche, la puntata da scaricare in podcast e poi soprattutto le vostre voci, i vostri pareri che sono sempre più abbondanti. Ci dite sempre di più la vostra e questo ci fa piacere, anche con qualche tono polemico, anche dialetto. Ma è questo che vogliamo fare assolutamente con la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. E poi Giorgio De Luca, immancabile in redazione, Peter Bescapè che ha schiacciato i bottoni qui della enorme console di Radio 24. L'appuntamento con La Rosa Purpurea la prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.